Continuiamo a parlare delle difficoltà che incontrano i lavoratori che sono anche genitori e in particolare le lavoratrici, quindi le donne madri. Qualche giorno fa è uscito un rapporto che riguarda il 2020 e in particolare la nostra regione, da dove emerge che tre quarti delle persone che hanno presentato dimissioni dal luogo di lavoro sono donne madri. Ne parliamo con la consigliera parità della regione Emilia Romagna, Sonia Alvisi, che ha il telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È un dato, come dire, che non lascia spazio a interpretazioni. Le donne, ancora una volta, sono quelle più penalizzate. Eh sì, purtroppo le donne sono penalizzate, soprattutto le donne che mettono al mondo figli. Hanno una difficoltà nella conciliazione dei tempi di vita e quindi si trovano a fare una scelta obbligata di dover decidere di lasciare il posto di lavoro. Un dato che mi ha colpito molto dal rapporto è, diciamo, più qualitativo che quantitativo, cioè mentre magari gli uomini si dimettono da un posto di lavoro per andare a lavorare in un altro, la motivazione invece per le donne riguarda proprio il doversi occupare dei figli, insomma più in generale il lavoro di cura. Gli uomini, la maggioranza, si dimettono per un posto migliore, per un'occupazione migliore, mentre invece le donne nella fascia di età poi 34 anni, 44 anni, che è la percentuale più alta di dimissioni, è per quel motivo della difficoltà della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rispetto al dover accudire ancora, pensare ai figli, perché nel nostro paese purtroppo esiste ancora la cultura che le madri si devono occupare dei figli, non c'è la possibilità di una gestione dei padri e delle madri, ma rimane a capo delle donne, e le motivazioni sono le più svariate, perché intanto le donne guadagnano meno, quindi in una famiglia, quando in una famiglia si decide chi dei due deve lasciare il posto di lavoro, è chiaro che prendendo in mano la busta paga, quella della donna è più bassa, perché i dati ce lo dicono, le donne guadagnano a parità di mansione, guadagnano meno degli uomini. Quindi la famiglia decide di fare a meno di quello stipendio che è più basso. La pandemia ha aggravato questa situazione? La pandemia ha acuito le discriminazioni, perché le difficoltà sono aumentate. Basti pensare anche alla variazione degli orari di lavoro. Se prima le donne occupate in settori prevalentemente di occupazione femminile potevano fare turni unici che le permettevano sia di lavorare che di conciliare la vita e lavoro, perché ad esempio inizio turno 8:30, fine turno 17:30, l'asilo o comunque la scuola finisce alle 17:00, c'era la possibilità, con un utilizzo di un babysitter per un'ora, di poter lavorare a tempo pieno. Oggi molte aziende hanno cambiato gli orari di lavoro e hanno addirittura cambiato in modalità, esempio con inizio lavoro alle 5:30 del mattino, con fine del turno alle 13:30, oppure inizio 14:30 e fine 22:30. Si capisce che sono turni che non possono essere compatibili con la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le mamme. Per le mamme, soprattutto, che nei bambini nella fascia 0-6-8 anni diventa per una mamma, se va via alle 5:30, ho un caso, sto seguendo un caso di un gruppo di lavoratrici che sono rivolte a me per questi cambi turni, dove svegliano i bambini alle 4:30 del mattino, per poi portarle a una babysitter che si occupa poi di portarli all'asilo o scuola, e diventa, si dice, una vita abbastanza complicata sia per la madre e anche per questi poveri figli che vengono svegliati alle 4:30 del mattino. Quali possono essere, insomma, le soluzioni? Le soluzioni possono essere molteplici: da parte delle aziende una maggiore flessibilità, un maggiore impegno per le lavoratrici che sono con figli, di dare una flessibilità di orario di lavoro. A fronte di questa flessibilità si trova una maggiore anche produttività, perché dietro tutti questi momenti di grande difficoltà per lavoratrici si ammalano più spesso, hanno problemi di stress elevatissimo e conseguentemente diventa anche un costo per l'azienda, laddove rimangono o laddove invece snervate danno le dimissioni, si liberano di queste donne, però diventano donne che appunto entrano in questi dati dove lasciano i posti di lavoro perché non ce la fanno nella conciliazione di vita di lavoro. L'altra soluzione potrebbe essere una soluzione governativa, perché se le donne madri lasciano il proprio posto di lavoro, quindi si dimettono, possono prendere la disoccupazione. Vedere di poter istituire la stessa motivazione anche per gli uomini, quindi in una famiglia si potrebbe decidere che lasciare il posto di lavoro non sia più la donna solo, ma possa essere anche l'uomo. E quindi questa potrebbe essere una prova da parte del governo di voler cambiare la cultura e voler dare la possibilità alle famiglie di decidere se lasciare il posto di lavoro la donna o l'uomo. Sicuramente la soluzione non è neanche il passaggio di un contratto a tempo pieno di una donna che ha un bambino, fare una riduzione di orario di lavoro del part time, perché è una penalizzazione anche quella, perché poi alla fine se fanno un rapporto di lavoro part time dove prendono una retribuzione di 650-700 euro, quando poi le rette degli asili vanno a coprire quasi tutto lo stipendio, anche lì vengono portati a dire rimango a casa perché se mi devo giocare lo stipendio nell'asilo tanto vale che ci pensi io al mio bambino, soprattutto nella fascia 0-3. Possibile immaginare anche di rimodulare il welfare? Sarebbe una grande opportunità. So che c'è una proposta di legge da parte di Valeria Fedeli. Il governo deve assolutamente mettere in atto azioni che vanno a supporto delle donne, del lavoro delle donne, perché il lavoro, l'autonomia delle donne e il lavoro è molto importante anche per combattere la violenza contro le donne, perché la donna deve avere una propria autonomia, una propria libertà di decidere e non essere obbligata a lasciare il posto di lavoro. Ci sono delle proposte che stanno avanzando governative, speriamo che sia la volta giusta di poter portare avanti tante i dati che ogni anno peggiorano invece di migliorare. Io la ringrazio. Grazie a lei. Arrivederci. Buona giornata.